L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Onorevole Gazzi, allora... Come Gazzi? No, non ho detto gioia. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Parenzo, che serata che ci aspetta, che serata, che serata. Dove ti trovi? Ancora a Pescara ti trovi? Sono amico mio ancora a Pescara, rimarrò qui fino a domenica, lunedì farò ritorno a Roma, hai dato anche l'indirizzo dell'albergo dove sono e stamattina si sono presentati all'albergo 3 simpatici ragazzi, temevo, volevo... 3, solo 3, non ho capito. Pensavo, volevo, la gente deve anche lavorare però. E allora? Temevo, volevano che volessero farmi la festa e invece hanno fatto un selfie. Allora, continua la vicenda che abbiamo lanciato noi ieri del sindaco di Roma, Marino, il quale il giallo sulle multe non pagate, diciamo così, multe non pagate, forse sospese, forse fatte cancellare, con una serie di cose incredibili dette dall'ufficio stampa di Marino ieri, la maggior parte assolutamente non corrispondenti alla verità. Lo stesso Marino, dice oggi mi occupo di problemi più importanti per i romani, cioè voi vi rendete conto, cioè il sindaco di Roma sembra, noi vogliamo utilizzare sembra, non abbia pagato 8 multe rilevate alla sua auto nel centro storico di Roma, vicino al Senato. Poi ci sono in ballo anche dei ricorsi forse per multe precedenti, ma lasciamo perdere questo. E lui dice che si occupa di problemi più importanti, ma la gente vuole sapere se Marino è uguale agli altri cittadini oppure è un privilegiato. Perché la questione è molto semplice, signori: o c'è una legge che prevede che il sindaco può entrare come cazzo gli pare al centro di Roma con tutte le macchine che vuole, ma siccome questa legge non c'è, ci vogliono i regolamenti, ci vogliono anche per il sindaco le autorizzazioni. Se il sindaco non si è fatto fare l'autorizzazione, gli hanno fatto la multa, il sindaco normalmente non deve farsi sospendere la multa, ma dovrebbe pagare, anche perché 600 euro, 700, 800, 1000, quante sono, non è un grande esborso, no? Per il sindaco Marino col suo stipendio. Comunque, sentiamo Marino. C'è un importante senatore del centrodestra che ha fatto un'importante interrogazione su un tema che lo agita e quindi credo che gli uffici a Roma si stiano preoccupando di dargli una risposta. Gliela daranno il pomeriggio, noi qui ci occupiamo di problemi più importanti per le romane e i romani. Grazie e buon lavoro. Oggi c'è la cena a Roma per Renzi. Io dico subito che le polemiche intorno a chi finanzia Renzi sono ridicole. Meglio che le persone escano allo scoperto e dicano ho dato 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 euro per Renzi, piuttosto che i finanziatori occulti. Questo è un metodo trasparente, trasparente, al di là dei nomi che possono essere controversi, gente che prima appoggiava Berlusconi, industriali, ma è meglio che si sappia. Se uno dà 10000 euro a Renzi, e noi lo sappiamo, questo credo che sia un bene per la democrazia. Dunque, secondo me, siano benvenute le cene di Renzi, perché i finanziatori sono tutti trasparenti in questo modo, tutti trasparenti. Ci sono persone però emozionate ieri alla cena di Milano come per Berlusconi, sentite. Onorata e emozionata per incontrare Renzi. Sì, di incontrare Renzi è l'unico scopo per cui sono qui. Poi tra l'altro che cosa succede? Che ci sono delle aziende che pagano dei tavoli, anche a me hanno chiesto di partecipare alle cene di finanziamento di Renzi. Io però faccio il giornalista e non ci vado per principio, perché sono fatto così. Io per principio non ci vado perché sono fatto così e non ci vado. Mi hanno chiesto, ho gentilmente detto vengo a cena con voi privatamente, ma non vado alla cena di finanziamento del Partito Democratico. Che ci vado a fare? Un giornalista secondo me... legittimo. No, ma è legittimo. Ma assolutamente. Mi hanno offerto di far parte perché, e non pagando poi. Cioè, se voglio pago e finanzio Renzi, lo dico. Ma non è che mi faccio pagare la cena da qualcuno. Mi faccio, non è che sto accusando la persona che mi ha invitato, che peraltro è Chicco Testa, che è un amico che adoro. Appunto, ma assolutamente. Se uno vuole va. Sì, se uno vuole va, secondo me un giornalista non dovrebbe andare. Ieri alla cena a Milano c'è un impresario delle pompe funebri, c'era pure, sentite. Io sono milanese e la mia venuta a Milano è per dirgli che io sono con lui e che vada ancora più forte, più diritto contro tutti. È ora di darci un taglio questa storia qua, è ora di finirlo. Io sono un impresario di pompe funebri e sto cercando di far sì che questo governo, dove dopo 25 anni non ha fatto niente a nessuno, un qualcheduno metta delle regole nuove nel nostro settore, che sono tanti anni che non ha mai fatto niente. Cioè adesso anche gli impresari di pompe funebri cercano quello è un mercato che non morirà mai, quello non morirà mai come mercato, effettivamente noi ci tocchiamo qui col senatore Razzi, ci tocchiamo di cui una, come si dice in abruzzese, senatore Razzi, tocchiamoci un po', no? Ci facciamo una grattata alle palle, ma si può dire qua la zanzara, si può dire, si può dire, ci facciamo una grattatina alle palle qui col senatore Razzi, che è il nostro ospite. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Come va? Che sicuramente saranno in molti a seguire. Beh, questo grazie, questo per fortuna ancora sì, ancora. Saluto ancora l'amico Davide Parenzi, che ieri sera si è mangiato 50 rosticini, 50 peperoncini, perché ha saputo che il vero Viagra abruzzese è il peperoncino, e lui se ne è mangiato un sacco. Ma veramente, ma pure tu Antonio hai mangiato ieri Viagra abruzzese? Ma come no, quello mangio sempre. E com'era? Come stavi dopo? Coci parecchio. Cioè che vuol dire? Brucia, da calore. Dopo ormai eccitato, com'eri? Sei fuori fase, nel senso che... Ma dopo la sera com'era con tua moglie? Cioè, eri carico dopo o no? Sono in pensione, devo rispettare. No, ma il vero dramma si è consumato durante la cena, perché io inopinatamente ho tagliato, come ha ricordato correttamente Razzi, il peperoncino. Poi dimentico di questo, sono andato in bagno un attimo come al solito, cioè, dimentico del fatto che avevo poco prima tagliato il peperoncino con le mani. Sì. C'è stato un effetto collaterale. Cioè, ti sei toccato col peperoncino nelle parti basse, diciamo. Non occorre andare nello spazio. È una cosa clamorosa, è un errore pazzesco. Come si fa a fare questi errori? Purtroppo l'ho tagliato con le mani, invece inesperto, io l'avevo visto, ti volevo consigliare, ti volevo dare un consiglio d'amico, non lo prendere in mano. Col peperoncino. Non lo prendere in mano. E tu invece l'hai voluto prendere in mano, e allora... amico mio, sai. Allora, qui però, prima di parlare dell'iniziativa che vogliamo lanciare, importante, con Antonio Razzi oggi sulle magliette straordinarie che chi è in webcam può vedere, ma che dopo diffonderemo urbi e torbi, cioè le magliette del matrimonio di Antonio Razzi, che hanno fatto ormai la storia del web, è una delle cose più cliccate sul web, le foto di matrimonio con lui con questi capelli pazzeschi, con la moglie bellissima, è bella anche oggi, ha oltre 60 anni, la salutiamo, la signora Razzi, spagnola di León, le foto del matrimonio bellissime diventano una maglietta che adesso diremo. Però la questione che da risolvere qui è questa. Oggi Parenzo ha fatto uno scoop. Lo scoop è che Antonio Razzi ha ricevuto una proposta dal di matrimonio. No, proposta di matrimonio no, ormai. Quelle le ricevi ogni tanto? Può essere. C'è qualcuno che ti scrive, ormai sei diventato un divo, ma qualcuno ti scrive, ti propone il matrimonio? Sì, ecco. Ci sono. Cioè ricevi proposte di matrimonio? Ma io dico, io già ce n'ho uno e basta. Appunto. Ma io voglio dire, uno è buono. Cioè ricevi ancora è buona. Cioè da quando sei diventato famoso, un divo praticamente, cioè ricevi proposte di matrimonio da donne che ti scrivono? Sì. No, a me c'è qualcuno che è invidioso di mia moglie, che... ma è una cosa normale. Proposte di matrimonio le ricevi, sì? come no? Dici quando mi vorrei sposare con te? Ma io dico quando mi vorrei, io mi sono sposato una volta e basta. E basta, poi definitivo. Punto e basta. Già il matrimonio è così difficile da portare avanti. Dice, ma a parte quello, ma io ho una moglie che è brava, bella e buona, sta tranquilla. Sta tranquilla, che vuoi, meglio di così che vuoi. Ogni tanto fai qualche cosina extra, se lei... No, per carità. Però vabbè, voglio dire, l'isola dei famosi, no? L'isola, qualcuno ti ha chiamato per... Ma io pensavo che eravate voi dalla Zanzara che mi avete fatto lo scherzo. Ma veramente? Sì, magari, sai, gente, chiamano di continuo, io ti propongo questo, io ti propongo quello. Sì, sì. Ma allora magari forse sarà uno scherzo, ma... ecco, ma era vero, invece era vero. Non lo so. Cioè, ti ha chiamato uno dell'isola, siamo dell'isola dei famosi? Sì, ma io ho detto, tutti quanti possono dire che è dell'isola dei famosi. Vabbè, però la verità, hai accertato che è l'isola dei famosi, però qualcuno della produzione. Non lo so. Comunque, che gli hai detto a questi qua? Io ho detto, non posso, perché io sono il senatore della Repubblica. E no, però diciamolo, prima hai detto, vediamo. No, dico vediamo, ma io non sapevo nemmeno chi era, io non l'ho visto. Vabbè, vogliamo dire una cosa definitiva, ci hai pensato in queste ore, no? Chiederà Berlusconi, assolutamente no. Cioè la risposta è non vado all'isola dei famosi. No, almeno adesso dico no. Dopo finito che non sono più senatore nel 2018. Ma poi non conti più un cazzo dopo. Dopo se mi vuoi, se no chi se ne frega. Comunque la risposta per il momento a questa edizione dell'isola dei famosi è no. No, è impossibile. Però a meno che Parenzo non ha scherzato. No, ma appena che cosa? A meno che Berlusconi non dice, cioè, come il problema lì sono i 6 mesi, no, Antonio? Cioè, passare 6 mesi lì sarebbe un problema perché osterebbe alla tua attività attiva di parlamentare. Beh, sì, ti dovresti dimettere dal Parlamento. No, ma assolutamente. Ma io sto così bene lavorare. Stipendio fisso. No, ma io, a parte, io lavoro per i cittadini italiani. Vabbè, d'accordo, questo è. E allora io preferisco quello. Se Berlusconi ti dice vai, tu che fai? Se ti dice vai. Certo che vai. Il capo sembra ragione. Per cui se Berlusconi ti dice via libera, puoi andare all'isola dei famosi. Ma dopo a vedere se è veramente. Se è uno scherzo, vabbè, che facciamo? Vabbè, mettiamo che è anche vero. Perché è canale 5, poi scusa. Non lo so, può essere 5. Pure cui, se la Zanzara. No? Mettiamo che è vero, canale 5, l'isola dei famosi. Se ti dicono se Berlusconi ti dà via libera, che fai? Se te lo ordina, certo, se ti dice Antonio, vai all'isola dei famosi che facciamo il botto di ascolti, che fai? Questo tu? Non credo. Vabbè, ma mettiamo che questo sia vero. Mettiamo che ti dica vado. Questo dopo ci dovrei pensare. Potresti disubbidire a Berlusconi? No, quello mai. E quello allora, mai. Se ti dice, però vai, che facciamo il botto di ascolti. Ce ne dobbiamo parlare a quattro occhi insieme e vedere. Cioè, e valutare. Se Berlusconi te lo chiede, valuti. Devo valutare perché ne devo consigliare con mia moglie. Io ho la mia anima gemella che deve anche decidere. Ci saranno un sacco di donne lì, eh? Io sono una persona seria. Che poi dimagrisci là. Lì dimagrisci sicuro. Se devi stare senza mangiare, è un disastro. Lì non si mangia. Si deve cacciare, si deve fare. Ma tu hai fatto l'operaio? Sei abituato. Io ho fatto l'operaio, quello non mi spaventa. Questo non mi spaventa. L'isola dei famosi non ti spaventa. Solo che non è vero, magari sarà uno scherzo qualcuno che vabbè, ma mettiamo scherzo. Che sia vero. Allora? E Silvio ti dice vai, facciamo il botto di ascolti, che fai? Risposta. Risposta che il capo ha sempre ragione. E dunque ubbidisci. Ma è normale, ci mancherebbe altro. Beh, no, adesso un passo in più hai fatto. No, perché io se Berlusconi, allora diciamo così, se Berlusconi mi dice vai, vado. Esatto. Lì lui comanda. Anche Mediaset comanda. Tra due mesi finisci di pagare il mutuo, quindi che ti fai? Tra 2 mesi, grande festa. 2 mesi è finito il mutuo. Va bene. Te lo faccio pagare a te, Davide. Ragazzi, traffico, dai, traffico, e torniamo subito con Antonio Razzi perché lanciamo l'iniziativa della maglietta, dai. Allora, siete due facce di merda, ovviamente. Allora, abbiamo con noi Antonio Razzi, che ha detto che se Berlusconi glielo ordina può anche fare il grande passo. Dai, io diciamo. Ripeto, sicuro sarà una bufala. Vabbè, ma mettiamo che sia vero, dai. Ma se è vero, se me lo dice Berlusconi, è normale, ci mancherebbe altro. Allora, 100 magliette in vendita. 100 magliette in vendita, giusto Antonio? Sì. 100 magliette in vendita con la foto del matrimonio di Nazi, magliette stupende, meravigliose, magliette cult, si può dire. Diciamo, le prime 100 mail che arrivano da adesso in poi, da adesso in poi, la zanzara è radio24.it, la zanzara è radio24.it. Le prime 100 mail offrite minimo 30 euro. Non fate i taccagni, minimo, non mettetevi tutti 100 da 30, sennò cancello tutto. Dovrà esserci minimo 30 euro, massimo quanto volete voi. 100 magliette. A chi li diamo i soldi poi? Agli operai di Terni. Agli operai di Terni? Eh sì. Bravo. Beh, grande sorpresa. Bravo. Sarà contento Parenzo. Cioè, al fondo pensioni, al fondo disoccupati, quello che sarà. Agli operai di Terni licenziati. Agli operai di Terni. Io vengo se dal saranno mondo... licenziati, ovviamente. Sì, io vengo dal mondo di lavoro e io, chi meglio di me può capire quello che sta passando, quello che stanno passando loro. E io penso che un aiuto che io posso dare, almeno da ex operaio, mi sembra doveroso agli operai di Terni. Allora, operai di Terni, qui non stiamo parlando di critiche sulle... Bravo, su... il compagno Razzi. Allora, non stiamo parlando di critiche sulle manganelle, non ce ne frega niente qui di queste cose qui. Io sposo questa iniziativa del senatore Razzi, che 100 magliette vendute da 30 euro in su, per un totale che sarà tot, verrà dato a quello che... al fondo pensioni, fondo solidarietà, disoccupazione degli operai delle acciaierie di Terni, giusto? Di perfetto, Terni, perfetto. Di Terni. Da ex operaio, lo capiranno? Io ho lavorato come loro, circo con... continuo 24 ore perché loro nelle acciaierie devono lavorare così, non possono fermare i forni. E capisco i loro problemi, perché hanno famiglie, hanno figli, magari alcuni c'hanno anche nipoti. Un aiuto che posso dare, almeno lo do con tutto il cuore. Allora, lo sai che mi è venuto in mente però, David, una cosa? Bravo, sto cioè, Razzi, David, bravo. Mi è venuto in mente una cosa, che in realtà si potrebbe, siccome sai che Renzi sta organizzando ste cene, no? Anto? Sì, ste cene 1.000 euro, ma Forza Italia un po' latita. Beh, dove si fa tu le cene per il partito? Le cene con Razzi, beh, ma sai, le cene con... dobbiamo organizzare le cene con Razzi in Abruzzo. Beh, la polizia a cavallo fuori per che dici? Possiamo fare le cene con Razzi in Abruzzo per finanziare il partito o no? Perché no? Sono sempre a disposizione per finanziare il partito, perché oggi, avendo che non ci sono più i contributi pubblici, per vivere un partito bisogna come in America, bisogna aiutarlo con cene, feste, manifestazioni. Per cui facciamo a cena con Razzi, meraviglioso. A cena con Razzi, con Radio 24 e tutto il ricavato lo diamo al partito. Beh, siamo al top. Beh, al partito un corno. Beh, come no, scusa, per forza al partito. Operai di Terni. Ma che voi l'abbiamo già fatto. Questo, le mie magliette va agli operai di Terni. Siccome Giuseppe sta dicendo che per il partito, come sta facendo Renzi, esatto, per diciamo dare una mano, perché ci sono anche lì problemi, che licenziamenti, che non hanno ragazze e ragazzi che non hanno più posto di lavoro perché non ci sono più in Abruzzo, organizzeremo delle cene. Si potrebbe fare delle cene così. Con Radio 24 extra la zanzara da Pescara, una cena con Razzi presente, e se magna sempre. Sì, ma perché in futuro, ma perché non vuoi fare il governatore dell'Abruzzo? Perché non fai il governatore dell'Abruzzo come idea? Ah no, questo non credo. Perché non credi? Non credo. Perché non credi? Scusa, no. Ma che candidato governatore dell'Abruzzo una volta finito il Senato? No, assolutamente. Sarebbe meraviglioso, Senti, ti faccio sentire quello che ha detto Renzi l'altro giorno in Senato, Anzi no, a proposito, prima ti voglio nel Senato, alla Leopolda, però ti voglio dire una cosa, ma come lo lecca il gelato la Madia? Ah, questo non l'ho visto. Ma l'hai visto la foto? Foto l'ho visto, sì. E hanno criticato là signorini per sessismo. Ma non si può uno mangiare un gelato in santa pace, ma come lo lecca, come non lo lecca. Vabbè, lui ha fatto la battuta, diciamo, ci sa fare col gelato, no? Quello è il titolo, e l'hanno attaccato perché è volgare, hanno detto sessista. Tu che dici? No, questo non credo. Ma come questo non questo, credo? No, come non ha ragione, credo. Non crede, dai. Davide, questo non credo. Ma dai, ma che sessismo, dai, su. È una battuta. Scusa, ma se l'avessero fatto con tua moglie, magari ti saresti arrabbiato, immagino. Scusa, mettiti nei panni di questa donna, di questa. Che è ministra, se avessero fatto ecco Maria, che è una donna straordinaria peraltro, che ho visto se avessero fatto a tua moglie mentre mangia il gelato, no? Ci sa fare col gelato, ti saresti arrabbiato, no? Ma sono tutte battute, e chi dice la sua moglie, scusa, battute, ma dove sì, ma se uno dice una ma in modo, secondo in che modo lo dice, ecco. Ma sì, beh, non ma c'è dai. Modo, è scritto lì, non è che modo. Comunque, caro Anto, ho visto la foto di Kim Jong-un in Corea, per parlare di Corea, con la sigaretta in un orfanotrofio, con la sigaretta in bocca. Si è ripreso, pare, hai notizie da darci? Sì, si è ripreso. Ottima salute. Ottima salute, eh? Ottima salute. Purtroppo. Ma quello lo vuole, Parenzo lo vuole morto. Male. Lo vuole morto, Parenzo. Parenzo. Eppure il compagno come te. Appunto. È quello no, che dico. Un corno. Io non metto le persone nei campi di rieducazione. Scusa. Senti. Oh, ci vorrebbe. Ma abbiamo detto, ci vorrebbero altro che campi ci di rieducazione. Ci vorrebbe anche qui, perché stanno lì, magari hanno forse voglia di uscire e di lavorare. Perché sicuramente ci sono quelli che ha voglia di prendere l'aria pura, però che chiaro che dopo deve essere controllato, perché i famosi campi di rieducazione. Ma Renzi ha detto che tu hai votato, bisogna il patto del Nazareno va bene perché non l'hai votato tu, ma tu l'hai votato invece. Io, beh, questo non me l'aspettavo da uno svelto come Renzi. Come Renzi, non mi aspettavo questo. Che tu hai votato come Renzi? Io ho votato come Renzi e come Berlusconi ha dato l'ordine di votare. Perciò io consiglio, a parte che i cittadini già lo controllano e l'hanno controllato. Va al Senato, vedi il tabulato. Ho votato il patto del Nazareno. Comunque, io ho votato la riforma del Senato. Allora, le magliette, scrivete, cioè Antò, ti devo lasciare che devi andare in aeroporto. Che devi fare? No, puoi restare pure dopo. Che puoi fare? Fino alle 7:30. Fino alle 7:30. Giuseppe, caro Parenzo, buonasera. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. Io adesso sto andando a mangiarmi due sagne e fagioli lì al Melograno sotto Miglianico. Allora, a proposito di gelato, del gelato della Madia, ancora se ne parla, tutto finirà, doveva già finire con una grassa risata, si ride, si scherza, chiuso, finito, invece dibattiti, sessismo, signorini, la macchina del fango, Massimi Gramellini, Micheli Serra, adesso signorini andrà sabato da Fazio a parlare del libro, dunque si riparlerà di questa storia, per carità, si dà da mangiare anche a noi con questa roba qui, non vogliamo dire niente. Però uno si doveva fare una risata con sto gelato, con la battuta di signorini e basta, chiuso, finito. Feltri ieri sera da noi, sentite, per un pompino che casino, straordinario, senti. Oh madonna, per un pompino quanto casino. Ma se adesso voi di sinistra siete diventati dei bigotti, una volta predicavate il sesso libero, la coppia aperta, adesso sono diventati peggio di Francesco, di Papa Francesco, è la miseria. Feltri contro la sinistra di Parenzo, incarnata secondo lui da Parenzo ieri sera, David, hai sentito, Ho sentito, e come, una sciocchezza, gliel'ho detto anche ieri. Ma quale sciocchezza? Secondo me è una sciocchezza, indignarsi di fronte a una volgarità come quella, sì, che non ha nulla a che vedere né con il giornalismo, a mio modestissimo avviso, specie quel titolo. Sì. Ho visto che la tecnica Brunetta... Ma perché la risata però. No, la crassa risata no? Lo fai leggendo il Vernacoliere. Ma la grassa risata no, perché chi non si può fare una grassa risata su una lì, no, No, l'indignazione, il ditino puntato. C'è il ditino puntato. Il ditino puntato, è una cosa bene, inutile. Ti piace il ditino puntato? Ancora puntata, Feltri sulla sinistra che una volta voleva la rivoluzione sessuale e adesso invece c'entra. Si stupisce, si vergogna e soprattutto si indigna per un titolo di chi di signorini. Pensate un po' come siamo ridotti. Ma ci si indigna per la persona che è stata colpita, ma non quale colpita? Ma essere colpite sono altre cose, no? Colpita per un titolo di chi? Guarda, ma finiscila. Se io fossi il marito della signora, che della cosa signora faresti? Madia, che cosa faresti? Mi incazzerei molto col signor Signorini. Io mi incazzerei se venisse trattata così la mia compagna, moglie, quel che è. Sentiamo Feltri ancora. Voi di sinistra per anni avete predicato il sesso libero, le coppie aperte eccetera, e adesso vi scandalizzate per un calippo. Ma fate ridere, ma per l'amor di Dio, ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa, un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. definitivo Vittorio Feltri, TG3, poi torniamo. Questo è abile perché butta la palla fuori dal campo. È stupendo, in realtà, è stupendo. No, è stupendo. Non tiene la palla nel campo. No, la ma è fuori. La discussione che è venuta fuori, lascia perdere che è bigotta. La discussione che è venuta fuori, no, TG3, titoli. Nulla di bigotto. Titoli TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuovo appello di Matteo Renzi sul lavoro, guai a farne un terreno di scontro, bisogna scrollarsi di dosso, paura e guardare al futuro. Boschi sulla legge elettorale a un passo dall'intesa, ma Forza Italia decida. I 5 Stelle, nessun accordo con il PD, ospite del TG3 Danilo Toninelli. Facilitazioni fiscali per centinaia di multinazionali e grandi aziende in Lussemburgo, nella bufera Juncker, a lungo premier, ora presidente della Commissione UE. Un ciclone nel basso Mediterraneo ha già colpito Malta, si teme arrivi in Sicilia. A Roma, mattinata di disagi per le insistenti piogge. Case, strade, aziende, c'è fango ovunque. A Marina di Carrara colpita dall'alluvione. La procura, diversi errori nei lavori sull'argine crollato. Caso Cucchi, la procura di Roma apre indagine dopo l'esposto della sorella contro il medico legale accusato di una perizia falsa. Dopo 3 anni negli Stati Uniti rompe il silenzio con 2 interviste il Navy Seal USA che uccide Osama Bin Laden in Pakistan nel 2011, una decisione che ha scatenato polemiche. Cosa incredibile, David Parenzo, è che hanno fatto anche un vino, hanno fatto anche un vino, sì, un vino sì, con sì, l'etichetta sì, di Razzi, cioè, sì, amici miei. Molto buono peraltro che ho bevuto ieri. Ce l'ho sera, qua, Montepulciano d'Abruzzo DOC, Razzi, ma gli hai dato, non credo, gli hai dato il marchio, il copyright, si è fatto pagato? Io non c'entro niente. Ma come non c'entri niente? C'è la tua no, foto lui qua. Non c'entra. Lo dico da amico, com'è la storia qua? Che no, c'è te lo dico da amico, bevi Montepulciano d'Abruzzo. Ma qui devi farti pagare i diritti, amico mio. Mm. Ma dopo, tutto dopo. Io ho ceduto i diritti. A chi? A mia moglie. Ma come hai ceduto i diritti a tua moglie? Sì, è vero. Cioè, in che senso? No, io non voglio sapere niente. Ma in che senso? Cioè, tu sei qualcosa ma di più? Ma io cerco anche di far vendere Montepulciano d'Abruzzo. Ma fare perché l'Abruzzo è la tua regione, tutto, certo. E ci mancherebbe. Ma non ho capito sta cosa del coso, Davide. Te la spiego, se vuoi. Allora, la cosa è molto semplice. Lui dice, in questo giustamente, io sai che lo attacco, Razzi, ma è molto simpatico. Ma in questo dice giustamente, siccome faccio il senatore, non ci voglio guadagnare, non posso, no, dice, non voglio guadagnare dei soldi ora sulla mia immagine. Anche se teoricamente potrebbe farlo perché molti fanno il doppio lavoro, no? Cioè, molti fanno gli avvocati e continuano a fare i deputati. Però lui che ha fatto? Ha detto, io c'è la moglie, la signora Maria, gestisce, hanno fatto un contratto, un accordo, ieri c'era anche questo suo commercialista, un signore incredibile che era lì. E hanno Mimmo Caporale. Mimmo Caporale. E c'era anche il maestro Pietro Ferrante. Beh, grandissimo, vabbè, lo chiamerò uno dei prossimi Ferrante, giorni. Vabbè, allora dei personaggi incredibili. Allora, a un certo punto lui c'era questo produttore di questa azienda agricola, di cui non voglio fare il nome perché neanche vabbè, poi dai, su, andiamo. Lui ha ceduto i diritti della sua immagine alla moglie. Cioè la moglie incassa i diritti, è uguale, è la stessa cosa. Almeno lavoro pure lei, se no lavoro solo io. E qui. Quanti soldi incassate da sta io non poi. No, tua moglie quanto? No, solo ma questa è una notizia clamorosa, cioè Antonio Razzi ha ceduto i diritti dell'immagine alla moglie. No, ma non hai capito. Ma una società avete fatto? No, c'è di più. No. C'è di più, dimmi qualcosa. Cioè la moglie è quella che dice, lei, io gli ho detto, ma lei gestisce, dice sì, ma tanto a me che mi frega, la moglie dice, ma sì, ma tanto lui è così, quindi io non so neanche niente quello che ho firmato, però lei è quella che gestisce per lui, ma lo so, che non lo so, a me lo dice, i diritti d'immagine di forse ti ha detto anche mia moglie che alcune cose va anche in beneficenza, no, se beh, arriva qualcosa. Ha fatto beneficenza con una cosa. Qualcosa in tasca le starà andando su, dai. Qualcosa. Almeno le spese, non... scusa. Qualcosa in tasca resterà, dai, su, diciamo la verità. Senti, ma che cos'è che hai letto prima? Che ti è arrivato. Guarda, mi è arrivato un messaggio. Sì. Un messaggio, diciamo, un comunicato stampa che ha fatto. Dario Ginefra del Partito Democratico. Dario Ginefra del Partito Democratico. Che tra l'altro mi sembra che sia il fidanzato di chi? Della Ravetto. Della Ravetto, allora? Ma dico io, ma come si permette? Prima di tutto sbaglia. Questo si vede che questo sul PD sbagliano tutto. Perché, perché dice che è la Rai, ma non è la Rai a fare. Non è la Rai, cioè, che vuole? Dice si opponga a razza di sole famose. Si opponga là. Ma io gli volevo dire a lui, ma a te che. Diciamo che te ne frega? Che cazzo te ne frega? L'hai lo detto dico tu. Io, sì. Lui, quando io molte volte vado alla Camera, perché lo conosco già dalla scorsa legislatura, chi fa lo svelto per prendermi in giro, sì, perché pensa che io non sono un laureato, sono un UFES, ma si crede che magari lui è laureato, è più bravo di me. Questo non credo. Allora io dico, come si permette a scrivere questo? Che dice? Ti piglia in giro? Che fa? No, sai, fa le solite battute. Ginevra, sì, no, specialmente sulla partita che volevo organizzare tra la nazionale e lì in Corea del Nord. Fa le battute. E allora adesso fa le battute. Adesso che dice? Adesso che dice? Lei dice che la radio, la RAI deve smentire la partecipazione di Razzi. Dice, se no sarà Razzi Amari. No, sarei a partecipare nello show così il deputato del PD di Ginevra, che aggiunge, ci troveremo in cospetto a una parodia della parodia, un'ulteriore mortificazione per il Parlamento italiano. Ma che cazzo dici? Ma lo fa Canale 5. Ma amico mio, lo fa Canale 5. Io dico che queste fanno un difetto di fabbrica. Prima di parlare, si devono informare. Io molte volte, quando magari tu o altri mi fanno la domanda, io dico non lo so. E lo dico chiaro. Senti, cioè, una cosa, me la nascondo. Allora, vogliamo dire una cosa, però, questa trattativa c'è con l'Isola dei Famosi o no? No. C'è stata. Cioè, pare che tu, tra l'altro, puoi anche farlo senza essere retribuito, sembra. Gliel'hanno chiesto. Te l'hanno chiesto. Dai, su. Te l'hanno chiesto, dai. No, me l'hanno chiesto anche altri politici. No, guarda. Ho ricevuto una telefonata anonima. Comunque, io pensavo, dici, questa è la Zanzara, dici, mi sta, come mi ha fatto lo scherzo col Papa, che non ci ho cascato. Allora non ci sono cascato, insomma. Vabbè. In indiretta. Comunque c'è un'altra notizia che forse possiamo dare. Qual è la notizia? Dai, però, poi dobbiamo chiudere, dai. Allora, chiudere, perché c'è l'aereo per pescare alle 9. Ecco, devi tornare a pescare in tempo alle 10:30, perché dobbiamo andare a cena da un'altra parte stasera. Ma dove andate? Dove cazzo andate? Allora fammi sapere, così. Ma dove cazzo andate? Andiamo a cena, da Franco, al porto turistico. Da Franco. Mi ha detto di andare stasera, ma ha detto andiamo da. Io vado là stasera. Allora aspettami che andiamo insieme. Porta anche tua moglie, perché la parte migliore della famiglia è la signora. Ma me lo devi dire, amico mio. Sei convinta a fare due chiacchiere con noi, sì, è una donna eccezionale. Ma guarda che è già stata con noi in onda, ma non ti ricordi un cazzo. È stata 5 minuti. Ma che 5 minuti, 20 minuti, dai, su, vabbè. Salutiamo Razzi che deve andare a prendere l'aereo. Ciao Antonio, a presto, ciao. Torniamo tra un attimo. Ci vediamo di là, Davide, ciao. Ascoltatori, eccetera, eccetera. Non vado all'isola dei famosi. No, non vado all'isola dei famosi. A meno che Berlusconi non lo ordina. Se ordina. Però se è vero, perché se ordina. E io pensavo, dici, questa è la Zanzara, dici, mi sta, come mi ha fatto lo scherzo col Papa, che non ci ho cascato. Allora, come cazzo? Siamo al top, ragazzi. Che tempi. Allora, mandiamo subito un po' di ascoltatori, dai. Andiamo, Benedetto da Padova, vai, Benedetto. Buonasera, eccomi qua. Dimmi. Dunque, ieri stavo ascoltando e ho sentito appunto Parenzo che prendeva le difese di un senegalese il quale, secondo Parenzo, era costretto a vendere rumenza porcheria senza fare la fattura, naturalmente, e giustificava il tutto dicendo che questo senegalese aveva il diritto di inserirsi nella società italiana. Ecco, io volevo dire a Parenzo che vada lui a farci inserire. In che senso? Beh, io inserire? Sono già, e grazie a Dio, inserito, perché è la società italiana. Ha inserito? No, Parenzo deve andare dal senegalese. Parenzo deve andare a farsi inserire dal senegalese. Lei dove deve andare lo può immaginare tranquillamente, ma è un posto che lei frequenta spesso, perché secondo me ce la mandano spesso, e questa sera ce la mando anch'io. Io ho detto un'altra cosa, ho detto semplicemente che questi Vukumbra, questi senegalesi, anche quelli che stanno ai semafori a infastidirci, per carità, mica sono non lo riconosco, ma manifestano una voglia di essere qua, di fare un lavoro, di guadagnarsi due lire, di trovare, e allora è evidente che rispetto a questi qua è chiaro che ci fa schifo la contraffazione, tutto quello che vogliamo, dopodiché questi qui manifestano la voglia veramente di lavorare. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire ti vendono i fazzolettini di carta al semaforo, magari ti... Ma è illegale o no? È legale o no? Non è, ho capito. È evidente che è illegale. E allora? Ma perché tu sei così attento alle sentenze, le cose, quando riguardano gli altri e non quando riguardano questi? Spiegami. Perché è un dato di fatto che c'è una parte della nostra economia che è illegale ma visibile, cioè mentre nei cantieri spesso lavorano sotto il soldo dei padroncini italiani, ragazzi albanesi che poi alle volte leggiamo che muoiono perché cadono dalle spaccature nell'edilizia, eccetera eccetera, purtroppo succede, molti di questi qua vengono qua e provano a inserirsi in un mercato del lavoro. Benedetto, gli vuoi rispondere? No, posso aggiungere qualcosa? Dimmi. Ecco, io vorrei dire ancora una volta che vada a farsi inserire, che se lo faccia inserire dal senegalese, visto che anche prenderlo nel culo è ormai diventato una raffinatezza dei progressisti, e quindi è giusto che ci vada a farsi inserire. Ci vedremo in quel posto lì insieme, perché lei so che ci va spesso, e quindi ci vada anche questa sera tranquillamente. Giancarlo da Bologna, Giancarlo da Bologna, buonasera. Vai, oh. Pronto? Vai, Giancarlo, dimmi. Pronto? Giancarlo, vai. Sì, buonasera Cruciani. Volevo fare una domanda. Io ascolto da tantissimi anni la vostra trasmissione, vi ammiro e vi apprezzo. Sì. Questa è una premessa. Ma sì, però lei deve abbassare, siccome mi sa che ascolta, ma non troppo, deve chiudere la radio, Giancarlo. Pronto? Perché altrimenti sentiamo il ritorno. Adesso? Sì, va bene, vai. Perfetto. Niente, volevo chiederle questa cosa. Sua figlia, Viola, trova un Twitter con un'immagine simile a quella della senatrice. Mia figlia ha 9 anni, amico mio. Ma infatti, no, le dico questo, subito, ha 9 anni. Perfetto, anch'io ho una figlia, ne ha 21. Allora? Beh, un po' diverso. Figlia, fermo, infatti era una provocazione. Sua figlia non si sa difendere. Sì. Come reagirebbe il padre, nonché lei... Ma che significa non si sa difendere? È un esempio del cazzo. Ma che esempio non è un esempio del cazzo. Ma non possono pubblicare la foto di mia figlia mentre mangia un gelato. Ma di che sta parlando? Perché è una foto di sua figlia che mangia un gelato. Ma a 9 anni, non dica cazzate. Ma di che sta parlando? Di sua figlia. Ma lei è completamente pazzo. No, cioè, l'esempio è sbagliato. È un esempio ridicolo. L'esempio ma cosa vuol dire? Dovrebbe essere un altro, non questo. Dovrebbe no, ma aspetta, allora, farlo proseguire un attimo. Che il delirio va fatto proseguire ogni tanto. Non è il delirio. Non è il delirio, no. Perché Parenzo poco fa ha fatto l'esempio della moglie di quel senatore che avevate ospite. Ma come può essere la moglie, può essere la figlia, una ragazzina? Ma che vuol dire? Ma la figlia minore è un esempio ridicolo. I figli minori non si possono mettere le foto. Di che parliamo? Non si possono mettere le foto. Una ragazzina di 18 anni, visto che se ne cazzo. Ma la ragazzina, ma se uno è maggiore, ma cosa c'entra in questo caso essere i minori o non minori? Ma cosa c'entrano i minori? Sto parlando di rispetto. Quello è un altro discorso. Tutte cose che oggi dalla nostra società vengono messe in secondo piano. Vabbè, ma lei sta parlando adesso di un'altra cosa. Aspetta, fallo parlare. Allora, non è lecita che voi con un programma di questo genere sosteniate questo tipo di comunicazione. Ma quale comunicazione? Non ho capito. Quale comunicazione? Signorini, che sono fatte da un emerito vigliacco. Vabbè, che si maschera dietro questo... un'immagine. Se venisse in piazza a farle e incrocia uno come me, 1,85-95 kg. Che fa? Vuole picchiare Signorini? E perché no? Vabbè. Perché no? Parenzo, gli vuoi rispondere tu per favore a questa follia? No, o no? No, scusi, cerchiamo di fare chiarezza. Io ho detto prima una cosa semplicissima che comprende chiunque. Se dovessero, io mi metto nei panni del marito della signora Mazzia. No, ma rispondi a quello che ha detto questo signore. Ma no, ma quello è una cosa che non c'entra, non è un esempio sbagliato. Poi sta parlando di creanza, vabbè, questo creanza ognuno... è quello che ho detto anch'io l'altro esatto, giorno. Esatto, bravo, pensate, la pensi questo... come questo signore. Vabbè, ma no, ma che no, ma per dire. Io distingo, dico che mi metto nei panni del marito della Mazzia. Allora, fossi no, ma il marito della Mazzia, secondo me, si è fatto una risata, se n'è fottuto e si è fatto una risata. E anche i figli, voglio dire, che anche lei, adesso il figlio della Mazzia è molto piccolo, però vedere una foto come quella, totalmente inutile, i figli della Mazzia che guardano un domani. Ma un domani cosa? Ma di che stiamo parlando? Quel titolo stupido, ma ha ragione Feltri, siete diventati, ma andate non spostare la palla fuori vabbè, fuori dalle, andiamo a Mantova, Mauro, ma chi è Mauro da Mantova un'altra volta? Giancarlo, ciao, Mauro Mantova, vai. Ciao, Cruciani. Oddio, è arrivato, è tornato, dai. Ascolta, è tornato. Schiaccia quello scarafaggio e i padri. No, no, fermo. Allora, perché gli devi dare dell'ebreo di merda? Spiegami, perché gli devi dare dell'ebreo di merda? No, io con questo sono delle cazzate senza ma cosa senso. C'entra che gli dai dell'ebreo di merda? Cosa c'entra, Mauro? Non mi fare incazzare, dai. Ascolta. Criticalo per quello che dice, su. Chi è che comanda in Italia? Chi comanda 35.000 famiglie ebraiche che hanno in mano le lobby? Ma non dire cazzate, dai, Mauro, su, ma non è così, dai. Ma come non è così? Ma Monti è mica incoiato di Rebelle Elettri. Dai, su, ma non dire cazzate, ma come Mauro. Si chiama la moglie di Rebelle Elettri? Si chiama Silvia Monti, ma mi viene per dare il culo a me? Mauro, abbi pazienza. Guarda che il giornale nel settembre 2011 giornale ha potuto mettere in prima pagina la Marcegaglia che si è presa 6 milioni di euro. Ma di che stai parlando? 6 milioni di euro nel 2006. Ma tu sei alterato. La messa, grazie a me, che è ubriaco, fai a vedere su internet, fondo europei. Ma io non so di che stai parlando. Sono scaculo, Luciani, sono scaculo. Ma io non so di che stai parlando. Mauro, hai. Sei quasi peggio di Parenzo. Va bene, allora, che cosa vuoi dire? Perché hai chiamato stasera? Spiegami, perché ma hai chiamato. Ma di che cosa parlate? Perché la Mazzia ha scagionato. C'è la gente che non arriva alla seconda settimana. E allora, ma tu non dovresti arrivare neanche alla porta di aria fritta, parlate di aria fritta. Vabbè, parliamo di aria fritta, può darsi che parliamo di aria fritta. Ma parlate dei problemi neanche... importanti. Sai da dove vengo io? Da dove? Sai da dove vengo? Da dove vengo? Vengo dalla Svizzera. Sai perché? E che hai perché fatto? È un mio amico che ha fatto i soldi rompendosi il culo. Non se li può mangiare da questo governo di merda l'ho fatto da mafiosi lobbisti. Va bene, d'accordo. Tipo Mazzegaglia le benedetti ma come ma che c'entra? E se li porta o in Svizzera o in Lussemburgo. Va bene. E io gli dico, fai bene. E va bene, d'accordo. Usa un anulare medio a tutti quelli di questo governo qua. Va che bene. Quando non hanno l'appoggio di Berlusconi fanno recchiare il culo a quell'idiota di Grillo. Ma non ti sei mai ma che c'entra Berlusconi? Perché 4 mesi fa ma stai Grillo... delirando? Stai no, delirando? Spiegami. Allora, perché 4 mesi fa? Guarda che ti faccio arrestare, Mauro. Ascolta, ti faccio arrestare. Cruciani, ti Cruciani. Faccio arrestare, non mi fare arrabbiare, ti faccio allora, arrestare. Cruciani, ti faccio ricoverare, fa? Ti faccio ricoverare, Mauro. Ma ti posso farti una domanda? Ti faccio ricoverare, più che arrestare. Ti faccio domanda? Ricoverare, amico mio, posso ti faccio ricoverare. Domanda? Tu sei una persona ammalata, diciamo la verità, Mauro. No, io dico la verità. Ma tu sei una persona ammalata, sei una persona disturbata, aspetta. Però va bene, basta ammetterlo, sono una persona disturbata. Luciani, allora spiegami perché Beppe Grillo, quando c'era la riunione degli azionisti del Monte dei Paschi... Ma che c'entra era adesso? Sai perché c'era anche lui? Perché c'ha le azioni del Monte dei Paschi. E beh, allora, è da 40 anni ma l'ha detto. Che acquista azioni del Monte. Vabbè, è andato, Mauro è definitivamente andato. Arrivederci. Ma no, perché non io con la verità che ti fa scomoda. Coglione. Ciao. Che te, come questo coglione di Parenzo. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. La realtà qui, la realtà, caro Parenzo. Quando gli che... hai chiesto da dove vieni, in realtà la domanda era retorica perché viene da un ospedale. Da dove vieni? Dici, mi hanno appena rilasciato dal pronto soccorso psichiatrico. E da lì viene. Beh, devo ammettere che con tutta la pazienza che io ho avuto in questi anni con Mauro da Mantova, siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno. Cioè, secondo me è proprio sotto cura intensiva. Io non capisco perché il sindaco di Mantova ancora. ancora non sia intervenuto con un TSO, è nei suoi poteri, il trattamento sanitario obbligatorio lo possono ordinare i sindaci. Chi è che sta scherzando, sta ridendo questo coglione, Mauro? Oh, ma... coglione, c'è la sua sorella, vaffa al culo! È impazzito. Capisci come si fa a impazzire? Come si fa a far impazzire Mauro, eh? Secondo me tra qualche anno ci accuseranno di aver fatto di essere noi a farlo impazzire. In realtà lui è sempre stato così. Cioè la sua famiglia, tutti lo hanno abbandonato, ha soltanto noi alla fine. Questo credo sia il dramma, vero? Mauro, il hai soltanto umano. Noi come la tua famiglia questo ti ha abbandonato, Mauro. Sì, nemmeno vivere! Eh? La tua famiglia. Tu, Parenzo, non dovresti nemmeno vivere, coglione! Sei una merda! Sì. Cioè, ma ha preso così a sbrocco. Cioè, sì, no, beh. Ma è abbandonato da tutti, è solo, dai. Guarda, basta adesso, Cruciani, dai. Cruciani, ti giuro. Dai. Cruciani, solo, ti giuro. È un uomo se solo, malato. Se becco Parenzo in qualche stazione, io ti rendo vedovo, perché lo ammazzo di schiaffi. Ma vedovo chi? Ma vedovo chi a me? Giusto, se lo ammazzo con le mie mani, quella merda, quella è una merda, non dovete nemmeno vivere, quella merda. Ambulanze, ambulanze, una sola ricchione e fracio, è un fracio, è un ormai la vita è andata, direi, no? Penso che sia ormai certificato, ecco, cioè è certificato. Non ti posso venire incontro stavolta, Mauro. Sei così. Non ti posso. Anche per me, anche capito? Lui, anche per Cruciani è troppo. E se anche per lui è troppo. No, guarda... troppo. In realtà non è troppo. Cioè, ormai è finita, è tutto finito, Mauro, è finito. Cioè. Riccardo, provincia di Trento, dai. Illustri, buonasera. Eccoci qua, io come andiamo? Volevo approfittare dei vostri microfoni per un appello a livello interplanetario. Sì, però parli più forte, avvicini il microfono, tolga il viva voce, faccia quello che deve fare. Tassi italiani, mi chiedo, ma vi rendete conto che parliamo il signor Razzi? Me tolga il viva voce, tolga il microfono, si manifesti il meglio. Sente meglio, Sì, vabbè. Riccardo, vai, su, forza. La mia intenzione era di usare i vostri microfoni per un appello interplanetario. Chiedevo agli italiani se si rendono conto che stiamo pagando il signor Razzi. Il senatore stiamo Razzi è molto più degno di tanti senatori che sono in Parlamento. Lo difendo io e lo difenderò Razzi sempre. Fa parte di tutta quell'altra masnada per la quale viene buttato fior fior di denaro. Non si preoccupi, mese. È molto più degno, per esempio, del senatore Piano, che è un grande assenteista alla Senato. Ma di gran lunga più degno come senatore. È molto più degno anche del puttanaio confinato al Parlamento europeo. Mangia soldi a sbaffo. Ma che mangia soldi a sbaffo adesso? Mangia soldi a sbaffo. C'è chi ci va, c'è chi non ci va. Per me andrebbe cancellato il Parlamento europeo, ma quello è un altro discorso. Ma non metto in dubbio che qualcuno ci vada, ma l'utilità, come l'utilità e l'apporto che il buon signor Razzi dà alla Repubblica Italiana finché c'è il Senato, finché c'è il Senato, quando non ci sarà più il Senato e quando nessuno lo eleggerà, le ricordo che il senatore Razzi è stato eletto due volte con le preferenze nel collegio estero, una volta con il Porcellum in Abruzzo. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Cruciani, stai attento come fa con me. Ed è con noi Daniela Santanchè, buonasera. Oh, buonasera a lei e a tutti. Come andiamo? Come andiamo? Ciao Danielina, ciao. Ma vai meno in televisione, ti vedo meno in televisione, come mai? Ma forse si vede che non guarda più i programmi. La vedo un po' di meno, allora senta che come è un momento di riflessione, un momento di responsabilità, un momento di responsabilità dove è meglio tacere in certe occasioni come che parlare. Per esempio, il silenzio è d'oro. Per esempio anche nel caso della Madia il silenzio è d'oro? Pronto? Non so di cosa parla. Beh, il gelato, le cose, questa... Non seguo il gossip. Ma come gossip? È un caso di cui parla tutta Italia. Non seguo il gossip. Sono abituata a parlare di principi e non di persone. Vabbè, ho capito, però possiamo dire una cosina e poi sorvoliamo su questa cosa qua. Una cosina molto. Non ho niente da dire. No, ho capito, ma è stata una porcata quella di Signorini o no? È allibita anche lei. Ma io non l'ho visto, non so. Non mi interessa, non vedo, non mi interessa, non so. cosa state parlando, perché è proprio fuori dal mio mondo. Ah, fuori dal suo mondo. Vai, lei, esattamente. Ma fatto, poi ci riprovo, non ti preoccupare, ci riprovo. Non, vabbè, non è che non fa male. Non è che mi arrendo così, non è che mi arrendo così. No, arrendersi mai. No, non è che mi arrendo, non è che può dire non ho visto. Bolla, non è che uno. Ma no, ma l'imbarazzo è evidente, perché essendo lei ecco, donna. Col boia io non c'ho nessun imbarazzo. Col boia chi molla. Imbarazzo, ma siccome è come se lei mi parlasse giapponese, è una lingua che non no, conosco. No, ma le dico, siccome riconosco risponderle. Che no, ma riconosco a Daniela Santanchè che siccome ha sempre fatto battaglie delle donne, per le donne, penso alla questione delle donne islamiche, ad esempio, con cui lei esatto. ha fatto queste battaglie, quindi voglio dire, lei da non da femminista, ma da donna di destra ha sempre fatto la battaglia per l'emancipazione delle donne. È in evidente imbarazzo, e la capisco questa volta, ma rispetto a questa scivolata di signorini, quindi capisco il suo imbarazzo. L'imbarazzo il suo silenzio di chi, d'oro. Scusi, per lei cosa... è imbarazzata. Per la scivolata di signorini, ha detto. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Proprio si vede che lei non mi conosce. Ma figurati. Non ho imbarazzo, non ho nessun imbarazzo di questo genere. Trovo che a parlare di questo si fa male alle donne e per cui preferisco tacere, non volendo fare male alle donne. No, ma la realtà è che lei vabbè, ma dopo ci torno, non ti preoccupare, dopo, perché devo trovare una chiave. Imbarazzo è un'altra cosa, preferisco tacere. No, d'accordo, però siccome del caso si è occupata tutta Italia, lei e io no. E si vede che sono marziana. No, perché in realtà lei, secondo me, dentro di sé vorrebbe difendere la Madia, ma non ce la fa. No, guardi, io non voglio, sto sempre dalle parti delle donne. Appunto. Però sono una donna di un certo tipo, non mi mescolo, non mi metto in queste robe qua. Credo che le donne sanno che sto dalla loro parte, l'ho dimostrato con battaglie molto sì. serie. Duca è dalla parte cui voglio dire di questa cosa qua non me ne occupo, non mi interessa e penso che tacere sia il modo migliore per aiutare le donne. Allora, ma se lei avesse chi come editore, no? Siccome fa anche l'editore, adesso sì. la metto in questo modo, vediamo come mi risponde. Se lei fosse l'editore di chi, e peraltro, vabbè, lasciamo perdere questo argomento. Se lei fosse l'editore di chi, avrebbe pubblicato una foto di questo tipo? Ma non avrà avuto nessun ruolo, perché essendo un editore che rispetta moltissimo la libertà dei giornalisti e del direttore, non saprei nemmeno cosa... uscirebbe sul giornale del quale Vabbè. Sono editore, perché ho un rispetto sacrale per e avrebbe rimproverato il suo direttore per aver pubblicato quel titolo? Non quel titolo. Rimproverato, non è mia abitudine, può parlare. Vabbè, ho capito, è l'editore, No. I giornalisti, la cosa più bella che hanno è quello di essere liberi e di fare i giornali che vendono. E io come editore chiedo ai miei direttori, ai miei giornalisti d'accordo. Di vendere le copie, non degli argomenti che trattano. Beh, ho capito, però... Di vendere le copie. No, beh, d'accordo, ma questo qua è... Uno può vendere copie mettendo anche in prima pagina uno che defecca in mezzo alla stazione centrale. Scusi, una ma non è che... Cioè, lei pensa che quel titolo là sia una porcata nei confronti delle donne? Questa è la cosa. Io le ripeto, siccome nella vita faccio l'editore... Sì... Per rispetto e sacralità non vado nella redazione, non vabbè, dico ma questo i d'accordo. Direttori capito, quello certo, che devono bene, fare, ma... non censuro i miei direttori. No, e capito, ma sarebbe stato su un Jack. Argomento che non facciamo mi avrebbe... un altro esempio. Facciamo un esempio diverso. La Daniela Santanchè è editore di un settimanale, un mensile che si chiama Chuck. Che è un bellissimo giornale che si occupa di cinema. Sì. Il direttore decide di pubblicare una foto, un pose di un'attrice, un pose. Questa foto scatena un casino. Lei che è l'editore in qualche modo... No, con un titolo ambiguo. Sono molto con contenta perché ha aumentato le copie in edicola, per cui molto bene se il direttore, senza ledere, senza fare dei danni, senza insultare nessuno, fare delle cose. Siccome per me il direttore è anche umano, e deve far stare in piedi i giornali in termini di venduto o di copie, quindi va benissimo. Sono tempi duri, non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Ormai è tutto degradato. Ragazzi, ragazzi, ho sentito oggi una cosa a Sky, Parenzo, di Marco Rizzo, che oggi vorrebbe celebrare l'anniversario di non so che cosa, l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, una cosa di questo tipo. Cioè, ancora qualcuno pensa al comunismo in Italia oggi. Signor Marco Rizzo, che dice che il comunismo, oggi invitato a Sky e questa mattina ad Agorà, dice che l'unica forma contro questo sistema è il comunismo. Ma non c'è qualcuno che chiama un'ambulanza, chiama qualche infermiere all'amico Rizzo? Cioè, Ma scusa, tolleri tutto e non, no, ma va bene, infatti. Infatti va benissimo, per carità, però il comunismo, ragazzi, su, cioè, provi a sentire, però non è solo, provi a sentire. Ci sono sto corrotti. Dicendo che il comunismo deve è l'unica forma sociale, economica e politica che può battere questo sistema. Se poi vogliamo avere il marciapiede pulito o vogliamo avere il cestino dell'immondizia, possiamo stare con Grillo. Se vogliamo cambiare la società per davvero, dobbiamo avere un progetto alternativo di società. E dato che non ce ne sono, l'anarchia è una bella cosa, ma gli anarchici non hanno vinto da nessuna parte. E quindi? E quindi bisogna tornare alle origini. Poi ho assistito a un dibattito incredibile oggi. A un certo punto ho girato su Sky, c'era la Saluzzi, l'amica Paola Saluzzi, che litigava con Rizzo su Stalin assassino. Cioè, mi sembrava di essere tornato agli anni 70-80. Stalin assassino, era contro il nazismo. Senti. Ma Rizzo, Stalin era un assassino, arcipelago Gulag. Si batteva contro Hitler. Ma certo, quella è un assassino più di lui. Le armi di distruzione di massa le hanno usate gli americani, punto e basta. Si batte soprattutto contro i cittadini e i lavoratori russi. Allora, mandandoli nei gulag. Ma l'avete scritta voi la storia, scusate. Ma no, Rizzo, te la storia. Leggere solo di Rizzo. Per fortuna che tutti ci sono vincitori. Per fortuna che a vincere fu la democrazia e contro il nazismo. Perché senza Stalin il nazismo non sarebbe stato vinto. Stupendo, sembrava una discussione con la Saluzzi che diceva santi numi. Meraviglioso. Allora, ecco noi Daniela Santanchè. Io voglio dire. Ma voi credete che i comunisti non ci sono più? No, non ci sono più i comunisti. Non ci sono. No, Landini cos'è? Landini è comunista? Landini è comunista? Non lo so. Camusso cos'è? No, vabbè, ma io mica sono comunista. Camusso vota PD. Il signor Landini è il segretario della FNOM. Landini non è comunista. No, vabbè. Vabbè, ma mica. Comunisti di che tipo? Comunista. Cioè, sono comunisti, cioè, questi comunismo qua. Comunismo è un'ideologia, no? Non è una cosa astratta. Comunismo è un'ideologia. Landini, Camusso. Poi? Rizzo. Sì, vabbè, Rizzo lo dice, però. Pendola. Sono diversi. Cioè, non Vendola. Sono comunisti? Cioè, lei dice Landini, quello che vediamo adesso che essere uno dei protagonisti della vita politica italiana, la Camusso contro Renzi, sono comunisti. Dunque lei dovrebbe essere dalla parte di Renzi contro i comunisti. Così? Dovrebbe essere dalla parte di Renzi in questo caso, essendo oggi maggiori nemici. Io tra Renzi e Landini o tra Renzi e Camusso, secondo lei da che parte sto? Che lo so, me lo dica. No, ma voglio dire, ovviamente sto con Renzi da questo punto di vista. Poi mi auguro che alle prossime elezioni sia il mio avversario, perché ritengo di essere cosa altro. Però le piace moltissimo Renzi, Però le piace anche mi piace moltissimo. Quando toglie 150 milioni di euro al patronato mi piace. Quando invece fa una legge di stabilità dove non aiuta assolutamente la ripresa e i consumi, mi piace zero. Però è uno con le palle, ammetta che è uno con le palle, le piace perché ha le palle. No, Renzi è uno che si è preso la leadership, se l'è conquistata. Appunto. E questo merita rispetto. Dunque è uno che ha, che insomma... Non è che ha chiesto permesso, la posso avere, è andato lì, ha aperto la prima volta, ci ha riprovato. E per questo lei lo ammira? Io chapeau per la gente che riesce. Anche Landini non è che posso dire Renzi è un cretino. No, beh, Landini. No, Landini è la differenza che mai no, guardi, Landini è riuscito a vivere alle spalle dei lavoratori. Ma che dice? Sì, cioè, perché non ha mai lavorato, dice lei? No, ha smesso di lavorare 30 anni fa. Dunque, è un parassita, si può dire, un parassita. Ha smesso di lavorare 30 anni fa. Una specie di parassita, lei sta dicendo. Ma io dico che voglio dire, sono i lavoratori che pagando il sindacato con bilanci che non sono neanche tanto bene lì da vedere, che sì, è mantenuto dal sindacato, certo. Ma è mantenuto, sa quanto prende al mese Landini? Lo stipendio di un metalmeccanico. Vabbè, no, che c'è? Penso che prenda, mi pare, 2.500-3.000 euro. 2.300, no, 3.000 un corno. Prende 2.200 euro. Ma che sei il difensore di Landini? Sei diventato? Che sei difensore? Sai quanti italiani vorrebbero guadagnare? Sì. Sai quanti italiani vorrebbero guadagnare 2.500 euro un corno? Italiani vorrebbero guadagnare i suoi 12.000 euro al mese o anche di più. No, magari italiani vorrebbero di più, guadagnare. Io ne guadagno, grazie a Dio, un po' di più, ma facendo imprese e creando posti di lavoro. E il signor Landini difende i lavoratori della FIOM, firma i contratti e difende i lavoratori della FIOM a 2.200 euro al mese. Guarda un po', guarda un po' la differenza. Sono contenta che lei difende Landini e si immagina quel tipo di lavoratore. No, difendo Landini perché Landini, grazie a un'altra cosa. I lavoratori di Cambia rispetto a Landini sono altra cosa. E che le ricordo che lo stipendio medio del lavoratore d'Italia è 1.300 euro al mese, per cui Landini è molto. Scusi, onorevole Santanchè, lei però ho spulciato un po' qua e là, non risulta molto presente in Parlamento, c'è un sacco di assenze, come mai? Sì, è vero, assolutamente. Come mai? E perché fare politica non è solo nel Parlamento, c'è da occuparsi del nostro movimento politico, c'è da andare sul territorio, c'è da fare tantissime altre cose. Però sì, oltre il 70... Sarebbe come se uno studente dicesse... Ma no, infatti non mi pagano, ma infatti non mi pagano, ma infatti non mi pagano, perché, scusi, tant'è che non mi pagano, perché lei sa bene, ogni giorno se non si va in Parlamento però, si scusi, lei giustamente... Infatti io non prendo uguale ai miei colleghi che sì, però lei prende lo stesso lo stipendio, ma non vale votazioni, no, oltre no, il 70%, no, no, oltre il 70% no, di assenze, e come no? No, guarda, a noi ci pagano. A noi se non vai in aula e non voti ti tolgono 250 sì, ho capito, euro al giorno, però... quindi alla fine prendi più niente. Ma no, ma non è vero, c'è una un'indennità fissa. Vabbè, comunque. Allora le mando domani in radio il mio ultimo bollettino ricevuto. Vabbè, ma comunque siccome al di là dei soldi. Ma al di là dei soldi il problema è quello. Non è come Landini, che vada o non vada lo pagano tutti. No, guardi, non si paragoni a Landini perché i deputati che non vanno, sì, non posso paragonarmi perché effettivamente è immondo, cioè è immorale. Quindi che lei si paragoni a Landini, perché ho fatto qualcosa un pochino di più, ho creato qualche posto di lavoro, credo che Landini invece non l'abbia mai creato. Le ha tutelati, ha lei. Landini li ha tutelati, no, ha fatto perdere, ne ha talmente sperato. Questo su questo su che non c'è più lavoro. Su questo però devo dare ragione alla Santanchè, su questo. Che non c'è più lavoro. Beh, su questo io credo che i sindacati di un certo tipo hanno fatto perdere lavoro in Italia. Su questo ha ragione. Su questo ha ragione. Mi dispiace. Però scusi. Siete tutelati che il tema oggi in Italia è che non c'è più lavoro. Però scusi, onorevole Santanchè. Onorevole Santanchè, al di là del fatto della paga, uno dovrebbe andare in Parlamento lo stesso. Adesso al di là, se uno non ci va alle votazioni per oltre il 70%. Non ha solo da fare quella cosa. Beh, ho capito. Allora, siccome io non prendo i soldi, perché se uno non va, se li tolgono i soldi, domani, siccome io sono una persona corretta, glielo mando, perché adesso non mi ricordo, 250 euro in meno per ogni giorno che uno non ci va, e quindi non viene pagato perché te li decurtano, perché non c'è la presenza. Adesso le ricordo che decurtano anche giustamente, io sono contenta che però ci si dovrebbe andare lo stesso, al di là della decurtazione, uno dovrebbe andare. No, ma perché io posso fare molto di più, siccome perché il Parlamento lei pensa che è inutile, dai, con Renzi pensa che il Parlamento sia inutile, dai. Penso che oggi siamo opposizione e quindi voglio dire è più utile quando riesce a fare le cose, ma io non mi voglio scusare. Ho la coscienza a posto perché se non vado non prende soldi. Vabbè, però mi sembra un criterio molto giusto. Vabbè, d'accordo, però insomma non è solo politica, magari porta qualche applichiamolo anche per gli operai della FIOM, che quando non vanno in fabbrica hanno un fisso pagato, però quando non vanno in fabbrica gli tolgono qua. Applichiamo lo stesso principio per tutti gli altri lavoratori. Sarebbe il caos. Sarebbe molto giusto. Sarebbe il caos. Io non vado alla radio, allora facciamo così, guarda, da lunedì. Io vado alla radio ogni tanto, prendo un fisso come prende lei e vado ogni tanto perché sono a fare la radio da un'altra parte. Sì, però cazzo, non sei al telefono. No, sono a fare la radio da un'altra parte a parlare con le persone. Ma non facciamo c'è, così. Se lei scusi, facciamo lavora così. Lì. E la sua trasmissione che parla in studio, come che non credo che adesso lei sia no, in è collegato, Milano, no? Sì, è collegato. È collegato, giusto? Lo fa assolutamente bene il suo lavoro, perché è collegato e quindi lo sta facendo. Se fosse, no, io non lo so. Cioè, vorrebbe il telelavoro, vorrebbe il telelavoro, il teleparlamento. Lei non sarebbe male votare per quello con Skype. Io non dico questo, che c'è modi e modi svolgere il lavoro da parlamentare. Vabbè, ho capito, ma le votazioni bisogna andarci almeno il 30% e lei non va per oltre il 70%, non lo senta, che bisogna rimediare a questa cosa. Il 30%, scusa. No, lei va solo al 30%, va solo al 30%, ma e prende i soldi per il 30%. Ma sì, d'accordo, però non è solo questo, i soldi si prendono anche con le commissioni e tutto. Se ritengono, se io no, le commissioni uguali, perché non è più come una volta. Adesso timbri anche la presente. Vabbè, mi parli di una cosa, non è un po' invidiosa di Renzi che organizza le cene a 1000 euro? Lei è una dei... No, io ho fatto talmente tante cene a molto di più di 1000 euro. È poco a 1000 euro? No, è una cosa che per noi ne ho fatte tantissime e mi sembra una cosa giusta, che siccome siamo a Bolivia, cioè ha copiato da voi? Sì, credo che abbia copiato, perché noi da molto tempo. Ma non si sente di cene che avete fatto voi, con a parte la campagna elettorale, di cene per raccogliere? Di cene ne ho fatte da Arfa, ma tutti gli imprenditori ormai stanno tantissimo. Ma tutti gli imprenditori che votavano voi stavano da Renzi adesso, un sacco di gente che prima votava per Berlusconi. Ma io so anche quelli che venivano da noi, si vede che sono bipartisan, che vanno da una parte e dall'altra. Ci sono quelli che vanno da tutte e due le parti. Comunque io so di moltissimi imprenditori che votavano per Berlusconi e che adesso finanziano Renzi. È così, è normale. Finanzieranno anche Berlusconi, perché tanti di quelli che c'erano ieri li ho visti le cene nostre, quindi va bene così. Vabbè, comunque l'ha pagata la tessera di Forza Italia? La tessera di Forza Italia l'ha pagata, l'ha rinnovata? Io certo, ci mancherebbe altro, sono assolutamente in e ha qualche arretrato? No, non ce l'ha. No, zero. Zero, vabbè, se, zero. Non è, se lei brava. Sarebbe incredibile se fosse anche un po', Scusi, la Pascale quando dice che chi offende le donne offende me, poi in realtà va un po' corretto, lei è d'accordo con questa cosa qua a proposito della vicenda Madia? Non ho capito. Quando la Pascale dice chi offende le donne offende me, sulla vicenda Madia, lei è d'accordo con questa cosa? Quando si offendono le donne, si offendono tutte le donne, se siamo, voglio dire, unite e compatte. E quel titolo dunque era offensivo nei confronti delle donne, quel titolo di signorina? No, ma io l'ho già ripetuto, lei torna lì, ma siccome sono nata a Cuneo, ma sono abbastanza le dico che non parlo. Lei il gelato lo mangia? Non so dove è nata lei, ma lei il gelato lo mangia? Guarda, io le dirò che non sono una appassionata di gelato. Ma le darebbe fastidio essere fotografata mentre mangia gelato in posizioni che fanno pensare ad un'altra cosa? Ma lei è duro però, no, non so ma... di dove sia, ma è duro però, è di comprendere. Molto duro. E speriamo. Lei lo mangia in coppetta, dica così se la cava la grande. Non lo mangio il gelato, non amo i dolci, mi piace tutto quello che è salato. Senta, un'ultima i cosa, dolci non mi piacciono. Ma Salvini come leader del centrodestra, lei lo vede bene oppure è una cosa impossibile? Ma la leadership non è una cosa fredda che si studia a tavolino. Sì, però la leadership non si chiede, si conquista. Se Salvini sarà capace, conquisterà la leadership. Ho capito, ma è una cosa impensabile, perché dice anche Berlusconi che cosa ha fatto finora, solo chiacchiere, eccetera, eccetera, oppure hai il physique du rôle per fare lì? Ma per me era anche impensabile che diventasse Renzi, per cui capisce, io essendo una donna di mercato, no? Ma il mercato ma di Salvini oggi com'è? Noi. Il mercato lo dimostrerà. Vabbè, ma secondo lei che è una donna però di mercato? Diciamo che oggi le idee di Salvini sono più vicine alle sue, perché insomma. Ma io lo trovo Salvini un politico molto capace, ha preso una Lega che era in grande difficoltà, ha deciso di fare una politica che è stata premiante in termini di consensi, per cui il mio giudizio su Salvini è positivo. Può diventare secondo lei leader del centrodestra? Perché no? Non dipende da me, non dipende vabbè, ma da lei, dipende questo... dalla gente. La leadership si conquista, non si chiede. Vabbè. Vabbè, questo lo sappiamo, però secondo me vale molto sul mercato oggi. Comunque, vabbè, non lo vuole dire. Grazie, buona serata. Grazie, ciao. Oh, coglione, sta la sua sorella! Vaffa al culo! Lecca culo! Sei un lecca culo! Luciani, sono lecca culo! Allora, Emilio Fede Story. Sai cosa ti volevo dire? Che a sentire la nostra trasmissione, se uno arriva dall'estero, no? E accende la radio, capisci? Pensa che nel nostro paese ci sia un 80% di matti. 70%. Cioè se arriva dall'estero. Vabbè, ma che cazzo c'entra, dai, su. Sente, cioè sistematicamente questi pazzi, ma non dire così, ma non è vero, ma dai, ma che sia un 80% di popolazione attiva con seri problemi mentali. Ma dai, ma non dire stupidaggini. Ma è così. Ma non dire stupidaggini, dai. È così. Ma no, ma non 80%, dice 60%, dai, 60%. Su. Allora, voglio ricordare, ragazzi, perché c'è ancora un po' di spazio, poco, ma c'è spazio, Fate un'offerta oltre i 30 euro, la zanzara è radio24.it, dovete specificare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, anche per quelli che fino adesso non l'hanno fatto e hanno mandato, mandate una mail con numero di telefono, indirizzo, maglietta di Razzi, quella con la foto del matrimonio di Razzi. I soldi andranno, secondo quello che dice Razzi, ovviamente, agli operai di Terni. La zanzara è radio24.it, foto di Razzi, stupende. Emilio Fede Story, perché ormai siamo agli sgoccioli. Primo licenziamento. Non vado oltre e non ho scritto niente, perché poi mi capiterebbe di commuovermi. E poi di commuovervi. Voglio dirvi grazie, voglio dirvi, ripeto, non è un addio, è soltanto un arrivederci e buona serata su Rete 4. Grazie. Perde la testa alla zanzara sui soldi. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI. Querela. Di liquidarmi. Io fondo pensioni. Quanti soldi devi avere dall'INPGI? Quelli che sono solo! No, Emilio, scusa, ma chi si è arrabbiato con loro? Rotti coglioni, siete delle merde. Vado a cercare nel mio privato. Ma noi abbiamo ma noi che c'entriamo? Ma che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Fra cazzo fiala 13 e stipendio 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ma andate a fanculo. Non pensi, basta, facciamola finita. Ma ammazzo. L'ho pensato. Quando l'hai pensato? Anche un'ora fa, prima di parlare con voi. Ma veramente? Assolutamente sì. Questa era ovviamente un'altra fase, un altro periodo. Cioè quando hanno aperto un'inchiesta per la storia delle foto truccate con i dirigenti Mediaset, le foto con i trans. Un'altra inchiesta sulle spalle di Fede dopo la prima condanna. E da noi qui alla Zanzara dice: beh, ho pensato al suicidio. Non pensi, basta, facciamola finita. Ma ammazzo. L'ho pensato. Quando l'hai pensato? Anche un'ora fa, prima di parlare con voi. Ma veramente? Assolutamente sì. Il cognome, la sua famiglia vuole dimenticare il cognome. Io ho perso tutto ciò che in 60 anni avevo guadagnato con la mia storia e la mia famiglia. Io ho chiesto alla mia famiglia di dimenticare il mio cognome. Perché? Si chiami, no, scusa. Perché? Perché ti dimentica? Cioè, hai chiesto a tua moglie, a tua figlia, di dimenticare il tuo cognome? Certo. Cioè, di cambiare. Quello di mia moglie, che è più prestigioso. Scusa, non posso. Va bene, ciao Emilio, ti saluto, ti abbraccio. E infine, ieri, caro Parenzo, in questa Fede Story, legge la lettera di licenziamento da Mediaset. La lettera è arrivata a Bologna Monzese 30 ottobre 2014, dice: è stato reso noto che presso la Procura della Repubblica di Milano è pendente un'inchiesta a suo carico per associazione a delinquere a scopo di diffamazione. Tale circostanza, ad avviso del Consiglio di Amministrazione RT, rende impossibile la prosecuzione del rapporto, collaborazione coordinata e continuata tra lei e la società scrivente. Tutto scatta dal, dal 31, cioè è stata scritta il 30 e scattava dal 31. Ma cosa succede spesso al cellulare di Emilio Fede? Siccome è un cellulare diffuso, è un cellulare che lui dà, perché è fatto così, Parenzo, è una persona spontanea, normale, diciamo, no? Sì, è un po' ciccio pasticcio, perché si mette un po' nei casini. La gente lo chiama per insultarlo. La gente lo chiama per insultarlo. Abbiamo recuperato qualche telefonata. Dimmi, dimmi. Oh. Pronto? Cucù, direttore. Cucù. Senti? Cucù, direttore. Direttore, cucù, il lavoro non c'è più. Sai che sono dei cornuti, no? In genere sono prostitute o impotenti, sicuro, drogati, però fanno adesso il direttore. Direttore, non è più. Cioè, dei coglioni. E poi li ho identificati tutti. Di questi qui c'ho la mamma che è una prostituta, e che fa pompini 5 euro. 10 pompini. Per quanto li fai pompini? Dimmi la verità. Cucù. Cornuto di merda, impotente e comunista cornuto, lurido. Anche comunista. Ma anche prima del licenziamento arrivavano telefonate al suo numero di cellulare. Dimmi, amore. Professore. Dimmi. Direttore. Dica, dica. Pronto? Dica, pronto. Chi è? Chi è? È il direttore Fede? È il direttore Fede. È il direttore? È il direttore. È il direttore Fede o no? È il direttore Fede, sì. Che fa? Mi faccio una sega. Tu? Ma come? Un consiglio, eh? Dammi un consiglio. Fatelo anche tu. Ma come, direttore? Così non rompi coglioni. Ragazzi, finitela di chiamare sto cellulare, su, basta. No, Parenzo, basta, dillo anche tu, ma basta. No, ma certo, ma guarda, comunque potrebbe capitare anche a me, perché quando qualcuno mi chiama e mi dice, mi insulta, oppure il numero scorre, dice delle stupide, lo mando a quel paese anch'io. Ma certo, è abbastanza certo. Normale questo. Beh, per normale. Se uno ti chiama, no, se uno ti ma chiama... Ma è lui che sta al telefono e manda a fare in culo la gente. Sì, no, è lui che... Allora, voglio fare un annuncio, urbi e torbi. Ho qui davanti a me, caro Parenzo, sì. Uno splendido, finalmente, il vero vibratore da borsetta. Sì. Il vero vibratore, ecco, da borsetta. Allora, si chiama Love Toys. Uno dice, ho l'ultima edizione del Manzoni, della storia della Non ho l'ultima edizione del Manzoni. Oppure il boccaccio. Ecco, no, magari, no. Ho un meraviglioso, adesso lo faccio vibrare, sentiamo, eccolo qua. Si sente. Beh, può sembrare anche. Siamo al top. Può . Sembrare anche un'impastatrice. Siamo però. Al top, aspetta. Siamo questo al top, è. Siamo al top, ragazzi. Questo è un vibratore da borsetta, che è un vibratore praticamente, tu non lo puoi vedere qui, Parenzo, nessuno lo può vedere, no, ma il popolo della zanzara collegato sicuramente lo può vedere via web, se non lo può vedere lo puoi immaginare, perché si tratta di un rossetto, di un semplice rossetto che mi è stato regalato da, guarda che è una cosa seria, perché c'è una conduttrice di RTL, no, una conduttrice di RTL che si chiama Valeria Benatti, che ha pubblicato un romanzo che si chiama Love Toys, con un passepartout dell'amore per lei e per lui, per Giunti, una favola piccante dal finale esagerato, una storia picaresca piena di fantasie sessuali, una lettura per tutte le donne, per quegli uomini che vogliono capirle meglio, e si parla anche di toys, di sexy toys, ebbene, di sex toys. Ebbene, è arrivata con un cofanetto, ringrazio molto la Giunti, ringrazio molto Valeria, però dentro c'era anche questo rossetto. Dentro c'era anche questo meraviglioso rossetto, ci abbiamo messo un po' io e Laura Marchesi per metterlo, come dire, in funzione, perché bisognava, l'abbiamo fatto insieme, amica, niente, lei era più interessata di me, perché io non è che me lo posso mettere da qualche parte, sì, adesso, potrei. Adesso no, perché devi tirare in mano la povera Laura Marchesi? Ma è successo, questo è successo, è la radio verità, cioè se è la radio verità è questa la cosa. Tu eri più interessato, di la verità, no, tu eri più no, perché devo dire la verità, anche per le donne. A metterti il rossetto che vibra. No, ma anche per le donne, questo rossetto vibrante, questo rossetto che faccio sentite la vibrazione qui, chiunque può ma sentire. Ma può sembrare una delle fruste, quelle che servono per montare la panna, cioè non è... Eccolo qua, metto il microfono, benissimo, vibra. Vibra molto bene, tra l'altro, Allora, è un rossetto, è a forma di rossetto. Dunque, amici miei, è troppo piccolo, diciamo la verità, cioè, ce ne sono... Però da borsetto è buono, cioè all'uopo può essere buono. D'altra parte, perché la Giunti, che è una casa editrice seria, regala? Cioè, la cosa incredibile è che ci criticano perché parliamo di queste cose qua, ma la Giunti, casa editrice molto seria, dà in regalo con questo libro un vibratore. Questa è la realtà, un vibratore a forma di rossetto. Love Toys. Cioè, eccolo qua, sentite come vibra, una cosa pazzesca. Devo dire un po' piccolo, ecco, un po' piccolo. Poi, ovviamente, ecco, è l'appunto, sai, che fa il signor Crucciati. Beh, sì, devo dire la verità, potevano anche, è vero che il rossetto è così, è vero che è molto comodo, devo dire che è molto comodo, però, amici miei, serve per, ecco, sì, forse per una, per un orgasmo clitorideo, come si dice, no? Oppure, no, non lo so, sì, sì, deve essere questo. Può servire a questo, altro non vedo, altro non vedo. Sì, poi anche per altro, però tutto si può fare. È molto comodo, l'unica cosa è molto comoda. Segnalazione, piccola segnalazione. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Sai che mi piace da impazzire questo suono? Quale dici? Questo qua del vibratore è un suono che mi fa. Cosa? No, ma è bellissimo. Ma sembra, scusami, se tu sai che tu non sai cucinare, ma se tu usi, sai, quelle fruste elettroniche, sì, che si, sì, usano per montare, che so, a neve il bianco dell'uovo, sì, ha lo stesso rumore, quindi potrebbe essere anche. Ma no, quello. Ti sto dicendo, qui tutti lo possono vedere che è un io rossetto. Io ci credo perché non ho, perché non so. Allora, io trovo scandaloso, cambiando argomento, trovo scandaloso che l'Associazione Nazionale Partigiani voglia vietare a Salvini e alla Lega, a Salvini in particolare, di andare a fare visita, avanti, una semplice visita, perché fino adesso le persone che hanno alzato le mani e si sono dimostrate violente, tra virgolette, sono i rom o i sinti, non certamente i leghisti che vanno lì. Sono andato là anch'io, figuriamoci, appunto, a vedere le cose. E ti hanno anche insultato pesantemente, ti hanno anche minacciato, diciamo la verità. Mi hanno insultato all'inizio, io poi ho trattato, sono entrato. Beh, ti pare normale? Ti pare normale che tu non puoi entrare in un campo, ma che è territorio loro, no, è proprietà privata? No, è proprietà privata. Beh, a parte che quell'area Sinti è un'area che il comune ha dato a loro, quindi come fosse casa loro, però se tu non è che ma entri che vuol a casa dire? Di qualcuno, ma non è che territorio loro, andare, ma che hanno, non è che poi entri dentro, ha dato a loro che cosa? Loro. Ma che c'è? Il campo Rom privato? Che cos'è? No, c'è, ma un'area, dai, quella su, lì di cui tu parli è un'area attrezzata che il comune ha attrezzato. Vabbè, comunque, poi, al di là di questo, l'Associazione Nazionale Partigiani, alcuni di sinistra, esponenti di sinistra, vogliono vietare per motivi di non so di che tipo, di ordine pubblico, forse, no, c'è, le passerelle elettorali. Ma che vuol dire le passerelle? L'elettore, uno fa politica anche così, andando nei campi rom, andando a fare visita nei campi rom, sì, perché sì, la sinistra, nella campagna elettorale, la sinistra non fa politica allo stesso modo, scusa, facendo altre cose. Il ma che vuol dire passerelle elettorali? C'è la campagna elettorale? Certo che è una passerella elettorale. In Emilia Romagna, cominciamo col dire questo: in Emilia Romagna c'è la campagna elettorale. Vabbè, ma mi pare chiaro, ma di che parliamo? Allora, scusa, eccitare gli animi di questi ultimi, di questi disgraziati, di questi poveri. Uno va là perché è una roba pubblica, perché va a vedere qual è la situazione in un campo rom. Questo non c'è dubbio, uno ci andasse tutto l'anno. La consigliera della Lega, ma anche secondo me lo fanno per campagna elettorale. Allora, la consigliera della Lega che ho incontrato lì, ci va sempre, invece Salvini non ci può andare. Ora, non si vede, no, ti dico un'altra cosa, non si vede perché alla vigilia della campagna elettorale quel campo deve diventare una passerella. Perché la politica è fatta così. Perché la politica un altro. Perché la politica è così. Perché la politica è fatta così. È incredibile. Perché è incredibile, va bene. Invece la sinistra quando sfrutta in campagna elettorale altre cose non va bene. Stupidaggini, io lo dico. Quando sfrutta cosa? Ma no, ma non solamente i campi rom, ma altre cose. Quando la sinistra la sfrutta. In campagna elettorale si sfrutta in tutto. In campagna elettorale la signorina la consigliera comunale, pardon, della Lega, la Borgonzoni, Lucia Borgonzoni, persona anche molto simpatica, ci è andata da sempre, quella è consigliere comunale. Tra l'altro ha detto una cosa oggi, te la faccio sentire, ti faccio sentire quello che ha detto la Borgonzoni. Cioè, no, perché ha detto una cosa incredibile su cui tu dici è molto gentile, sicuramente. Senti che ha detto la Borgonzoni oggi. Lega Emilia Romagna, senti. I bambini, questo per quanto riguarda più che altro le aree, quelle abusive dei rom, per me, e l'ho già detto in comune varie volte, andrebbero portati via, perché altrimenti non potranno crescere degli adulti sani in situazioni senza acqua, senza luce, in mezzo ai rifiuti e con genitori che comunque delinquono per vivere. Lei dice in alcuni casi, quindi i bambini cresciuti nei campi rom vanno strappati alle famiglie. Portati via alle famiglie per il loro futuro. Tra l'altro la voce era tua, David, l'intervista che l'ho fatto io, certo. Sì, sì, no, ma quella è una frase allucinante. Non l'avevo sentita ancora. Cioè, è allucinante. Vuole portare via i bambini dai campi rom. Perché per me quello è allucinante. Lei lo giustifica dicendo chi cresce in quel contesto lì cresce in un contesto potenzialmente criminale, lei dice, e quindi le vanno tolti. Ora uno dice, ma un figlio di uno potrebbe fare l'obiezione e dire, ma scusatemi, ma qualcuno ha tolto i figli a Rina, ad esempio? A Rina, domandatelo. No, no, ma anche secondo me togliere i figli non va bene. No, no, ma guarda, ti dirò di più, ti dirò di più. No, ma ti dirò di più. Ti dico di me. Più, secondo me è sbagliato togliere i figli. Cioè, no, è sbagliato togliere i figli, a meno che non ci siano casi gravi, ovviamente, in cui se uno commette l'errore di mandare i propri figli a fare l'elemosina, i figli devono essere tolti. Se si prova che i figli vanno a fare l'elemosina perché glielo ordinano i genitori, e spesso è così, i figli andrebbero tolti, quello sì. Vabbè, questo, ma qualcuno ha mai tolto, ma non perché l'educazione, no, ma che c'entra, quello è diverso, ma no, quello è diverso. No, attento, perché sui rom si fa sempre questo ragionamento qui, cioè vivono in quel contesto là, quindi togliamo gli figli. Nessuno sogna di dire ha sognato negli anni passati di dire a Rina, guarda, ripeto, perché Ciancimino, perché qualcuno ha tolto la patria di potestà, no, ma i bambini, ma che c'entra, Massimo, quello era adulto, dai. No, ma è vale il ragionamento, è chiaro che era vale il ragionamento che ti sto facendo, però, cioè che sui figli. Allora, ragazzi, continuate però a mandare queste vostre maledette offerte. La zanzara è radio24.it, la maglietta col matrimonio di Razzi, la maglietta con il matrimonio di Razzi, la zanzara è radio24.it. La maglietta del matrimonio di Razzi. Avete fatto un boom di offerte pazzesco fino a un certo punto, adesso vi siete fermati. Ma quanto siamo? Ma siamo già a 3.000 euro, a voglia. Veramente? Sì. Cala. No, no, che cala un cazzo. Cala niente, oh. Allora, Fedez contro Brunetta, sentite che ha detto Fedez e nessuno si indigna oggi, eh? Nessuno si indigna per questa cosa, siccome è Fedez, nessuno si indigna. Fedez. Ah, non c'è l'audio a X Factor? Perché cazzo non l'avete preso l'audio? Voi siete impazziti? Eh? Perché? Come si fa a prendere l'X Factor? Mi stanno dicendo. Ma che siete pazzi? Cioè Fedez che dice mi lancio col paracadute dalla testa di Brunetta, non avete preso sto cazzo di audio. Ma io adesso faccio un macello qua, esco, faccio un ammazzo tutti. Mi lancio col paracadute dalla testa. Bisognava chiamare Sky! Mobilitare risorse! Chiamare Sky! La prendo a ridere, va. Mi lancio col paracadute dalla testa di Brunetta e nessuno una si è. Una battuta infelice, assolutamente. E perché nessuno protesta? Ma come? Ma io l'ho vista. Beh, però ti presento un grande ascoltatore della zanzara, un uomo straordinario, un personaggio che è stato il, si può dire, l'antesignano di molti politici, ma anche uno che ha curato l'immagine di molti politici, Cesare Cadeo. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Davide, ciao Giuseppe. Grande ciao, ascoltatore Cesare. Della zanzara. Grande, sì, ascoltatore. Io sono come quello del casello di Carisio. Beh, io ogni sera l'ascolto. Beh, grandissimo. Faccio la notte nella rubrica. Abbiamo lavorato anche insieme con Cesare. Sicuramente. Senti Cesare, tu, ma oggi ancora fai televendite? Scusa? Ma ancora fai televendite oggi? Assolutamente sì. E che vendi? Che vendi? Vendo reti elettriche e vasche da bagno. Reti elettriche e vasche da bagno. Dunque, tu sei stato praticamente uno dei primi a vendere cose in televisione, o sbaglio? Assolutamente sì, ormai sono quasi 20 anni. Senti, ma siccome dicono tu domani che potresti vendere vibratori, forse, no? Beh, no, i sex tu cruciali. No, io dico, a me lo stai dicendo. No, non ma, no, ma perché te, dovrei vendere? Io forse da me dispensa a me, dice, tu potresti. No, i sex toys oggi hanno un grande boom, è una delle poche industrie che ancora funziona. Ma perché? Io faccio un altro mestiere, cioè faccio la radio. No, cioè, ho detto un domani. Ma perché devo vendere? Ma perché devo vendere? Io spero perché di fare la radio. Hai un profilo credibile su quella materia, perché la conosci bene. D'accordo? Abbiamo qui un vibratore a forma di d'accordo. No, ma perché? Ma a parte che non parlerei mai. Non parlerei mai. Ma potresti anche farlo. A 70 anni, scusa. No, appunto, ma perché? A 70 anni, finita la zanzara. Perché mica faremo la zanzara fino ai 70 anni, scusa. No, ma d'accordo. A 70 anni abbandoni tutto e ti prendono come testimone. Dici, io a 70 anni ancora faccio questo, quest'altro, le copie, ti faccio cose vado a fare televendite sui sex toys. Vabbè, cioè, io ho trovato il lavoro del futuro. Ma perfetto. Tra l'altro, i sex toys non hanno bisogno di televendite, secondo me c'è un altro mercato. Alcuni oggettini, magari puoi far insegnare da Cadeo le tecniche per vendere meglio gli oggetti. Senti, Cesare, ma secondo te Renzi è un grande venditore? Guarda, secondo me assolutamente sì, nel senso che lui conosce molto bene, un po' per istinto, un po' perché è la natura che lo porta ad illustrare bene tutto ciò che lui intende proporre, e un po' credo che abbia studiato o qualcuno gli abbia insegnato una tecnica di comunicazione che secondo me è davvero molto avanzata. Adesso io onestamente ma in questo è molto berlusconiano secondo te? Ma guarda, sono due, secondo me, come voi sapete, due personalità estremamente diverse. Direi che nel calcio c'è Ronaldo e c'è Messi. Uno è Ronaldo e l'altro è Messi. Sono due grandi campioni da questo punto di vista. Sono tecniche, secondo me, completamente differenti, a mio modesto avviso. Per esempio, quella di Renzi qual è rispetto a quella di Berlusconi? Ma guarda, per entrambi e anche per Renzi, mi viene in mente... Nelle reminiscenze che ho di aver letto una volta Raymond Aron, che è un grande intellettuale francese, come sapete, che disse: siate dappertutto, fate qualsiasi cosa e non smettete mai di stupire il cliente. Ecco, secondo me entrambi hanno questa caratteristica. Io non saprei giudicare, dico solo che sono veramente per esempio il mio ruolo è un ruolo ovviamente diverso da loro. Io ho imparato da Mike una cosa che spero che faccia Renzi anche nel suo settore. Mike mi diceva che il metodo da seguire era: prima di vendere sincerati dalla bontà del prodotto, e poi ricordati che quando noi vendiamo qualcosa la gente lo tocca subito con mano. Ecco, il mio augurio da italiano, che spero che Renzi si possa toccare ciò che Renzi promette con mano presto. Senti, ma tu sei un po' renziano, però sei uno di quegli ex, a parte che adesso poi hai lavorato, credo che adesso non so se c'è una militanza nell'NCD, comunque hai lavorato con Podestà, ma adesso che voti NCD? Come tecnico. Guarda, ti devo dire che sono stato abituato nella vita, forse per esperienza anche professionale, ormai adesso prima di fare una scelta voglio non solo riflettere bene, ma voglio vedere se quello che mi promettono e mi dicono di dare... Ma sei renziano un po'? Cioè ti piace molto? Lo voteresti? No, e non ho ancora, ecco, da questo punto di vista onestamente ancora non lo so. Non saprei. Oggi se dovessi andare a votare andrei a esercitare il voto, ma non so se uscirei dall'urna avendo messo un segno oppure avendo fatto scheda bianca. Comunque, come venditore, il voto che gli dai, cioè, da esperto della materia, da cultore della materia, il voto che dai a Renzi qual è? Direi in università 110 lode con abbraccio accademico e pubblicazione della tesi. Grazie Cesare, a presto. Ciao. Signor Mauro da Mantova, qui è bene, ce l'aveva con te. Sì, assolutamente, ce l'ha con tutti, va tutto campo. Allora, buon anno sui Rom oggi. Mancava. Allora, però, tu devi sapere che l'accattonaggio dei minori è un reato, eh? Cioè, se si scopre che in realtà i minori vengono istigati all'accattonaggio, certo, è un reato. No, ma deve essere chiara questa cosa qua. Quando vedete un minore per strada, un Rom, segnalatelo immediatamente. Andate a segnalarlo. Rom o no che sia, ovviamente. Segnalatelo immediatamente, perché è un reato. Dunque, è giusto in questo caso togliere. Buon anno, Rom. Io per arrivare qua ho preso la metropolitana. Sono salito sulla metropolitana e la prima cosa che ho sentito è stato, credo almeno 10 volte: attenzione, ci sono i borseggiatori. Tutti con le mani così stavamo. Cioè, su se la metropolitana di Roma, la prima cosa che ti dicono è: attenzione ai borseggiatori. Io sono un italiano, ma i turisti, cioè, ma che cosa possono pensare? Dopodiché, appena vedi uno zingaro, vedi qualcuno un po' strano, ti impaurisci. Ma è una cosa normale. Perché succede questo? Perché non è che uno ce l'ha con i Rom di per sé, ma se la sono anche cercata. E se qualcuno gli chiede i soldi, che fa? Purtroppo nel caso dei Rom c'è una grande percentuale che purtroppo vengono presi, che rubano, che usano i bambini per andare a rubare, che usano i bambini per fare l'elemosina, che ci sono le mamme, come vedo io da sindaco, che usano il neonato per andare a cercare l'elemosina e a rompere le scatole alla gente, ci sono quelli che si mettono fuori dal supermercato a tirarti la giacca e dirti: dammi i soldi. Se lo dice a me, gli do un calcio nel sedere, ma se glielo dice a una persona anziana si impaurisce. Vai Marco. Questo signore ha mai girato il mondo, no? Non ho capito, che problema hai, Parenzo? Dimmi. No, dico, questo signore qua non ha mai girato il mondo. Se va a Londra, dicono lo stesso attenti ai borseggiatori, non è che dicono attenti ai borseggiatori rom. Secondo me dovrebbero dire anche nella metropolitana attenti che è salito un leghista. Attenti. Vabbè, ma non esagerare, perché attenti, vuoi negare anche la realtà, però, di fronte alle cose, dai, su. Neghi la realtà, dai, su. Ma è pieno di borseggiatori rom sulle metropolitane, dai, su. Ma non c'è manco un rom che ruba a Londra, smettila. Ma chi ti ha detto? Marco da Roma, dai. Attenti ai borseggiatori. Ma non c'è manco un rom che, ma che c'è? Quello è chiaro che ci sono borseggiatori. Ma è chiaro che ci sono borseggiatori anche non rom e nelle altre città. Marco, e dai. Allora, fine. Pronto? Sì, vai Marco, dimmi. Ha finito, Ciro, porca puttana. Che mi devi dire? Che ti devo dire? Allora, innanzitutto potresti far benissimo il venditore in un sexy shop, perché hai dato proprio una descrizione dettagliata di questo strumento. Sì, vibratore a forma di rossetto, sì. Vibratore a forma di rossetto, sì. Bellissimo, guarda, poi in una fascia oraria in cui proprio i clienti, mamma mia, si eccitano a sentirti. Beh, tu sicuramente non ti sei eccitato perché c'era una voce da morto di sonno che sembra che ti sei fatto 40 canne. A far bene il sonno, poi sembra che ti sei fatto 40 canne. Emilio Fede, ma l'ha comprato di tutti i colori, è stato sotto processo, gli ha leccato il culo per 25 anni a Berlusconi. E poi era pure solato dicendo che i soldi servivano a. Devo chiudere, guarda, ti saluto così con questa vibrazione. Senti, sì. Senti, la senti sta vibrazione? Sì. È il vibratore a forma di rossetto. Sento, lo devi mettere il vibratore. Dove? Fatto vita parezzo, va. Dio a Fede che io sono comunista e si s'ammazza, non è che mi strappi i capelli. Mamma mia. A lunedì 18:30, ciao. Siamo al top, Siamo al top, ragazzi. Oh, coglione, c'è la sua sorella! Fa il culo! Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ciao Crucials, lecca culo, c'è un lecca culo, Crucials, c'è un lecca culo.